Respiro. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro. Si va verso Natale, la settimana che sta per cominciare è quella che per molti coincide con la corsa ai regali, uno strutturato caos che ci imbottiglia per strada, ci fa fare file interminabili nei negozi e ci fa comprare, magari per persone per noi importanti, regali a casaccio. Dunque, questa di oggi vuole essere una piccola ecoguida di Natale. Pochi giorni fa l'organizzazione ambientalista australiana ACF ha commissionato la prima analisi dell'impatto ambientale delle spese natalizie e il suo direttore Don Henry si è scioccato, dice lui, dei risultati. Il rapporto lo hanno elaborato economisti dell'Università di Sydney e hanno calcolato che solo in Australia gli acquisti in dicembre dei tipici regali di Natale creano 2.861.000 tonnellate di gas serra. I dati valgono in Australia come in Italia, Stati Uniti. E allora noi cosa possiamo fare? Intanto, per prima cosa, non scoraggiarci, non pensare che essere più attenti significhi essere guastafeste, e poi comprare meno regali e con più attenzione, scegliere più prodotti natalizi tradizionali, concentrarsi sui doni a basso impatto ambientale, cioè oggetti riciclati, buoni acquisti per servizi come massaggi, biglietti per concerti, eventi sportivi, abbonamenti al cinema e al teatro. Adesso però andiamo nel concreto e la prima idea che vi segnaliamo arriva da Lecce. Una donna ha aperto un laboratorio di sartoria all'interno del carcere femminile di Lecce. Lì hanno cominciato a produrre delle borse di tessuto. Il tessuto è tutto proveniente da scarti delle imprese tessili e così nasce Made in Carcere. Luciana Delle Donne è l'ideatrice di questo progetto. Sentiamola. Noi nel carcere di Lecce, ma adesso anche in quello di Trani, qui nel nord barese, realizziamo delle cose semplicissime, delle buste in tessuto, buste naturalmente coloratissime, vivaci, fatte con tessuti di tappezzeria, con scarti di vela, con la pelle per esempio che Costume Nazionale ci offre, vari tipi di tessuto, tutto quello che c'è, tutto quello che i laboratori tendenzialmente tendono a scartare. Noi andiamo, passiamo a prendere i bustoni della loro, tra virgolette, spazzatura e la ricicliamo, cioè la riusiamo creando delle borse che sono il package, i contenitori, il contenitore di qualsiasi oggetto. E nasce come busta che contiene l'oggetto o per esempio buste per convegni, seminari, e poi è così bella, simpatica. Non lo dico io, però lo dice il pubblico, il mercato, sono così carine che poi vengono utilizzate per altri scopi. Ed ecco come uno stesso oggetto può essere usato più volte, a seconda della creatività, della fantasia. Ma se lei pensa a le buste che vengono risparmiate, quelle di tessuto e di carta, perché comunque, allora intanto abbiamo una pulizia dei laboratori, quindi diciamo che ottimizziamo la logistica degli spazi delle aziende che si occupano di tessile, che sono costrette a smaltire i tessuti perché non c'è spazio e comunque per problemi di sicurezza non devono smaltire. Usiamo una borsa che inizialmente, realizziamo una borsa che inizialmente viene usata per contenere la spesa piuttosto che gli atti di un convegno, piuttosto che un maglione, un cappotto, una camicia, e poi viene usata come busta per metterci la biancheria, metterci le spazzole, le scarpe. Noi vediamo gli usi più assurdi, tra virgolette, perché è lì che la fantasia si sprigiona a riutilizzare un oggetto, a dare valore veramente alle cose che si fanno. Il lavoro, l'inclusione sociale, il lavoro che si, l'avvicinamento al mondo reale del lavoro da parte delle detenute, diciamo che senz'altro è un elemento importante, ma è uno degli elementi importanti, perché noi rispetto all'ambiente creiamo un buon impatto, nel senso che rigeneriamo i tessuti, eliminiamo gli scarti e riduciamo proprio la massa di rifiuti che si crea. E poi in qualche modo lanciate la moda di usare non più sacchetti di plastica. Ah, certo, l'anno prossimo sarà vietato, nel 2010 scade appunto la possibilità di utilizzare delle buste di plastica, e quindi siamo tra virgolette avvantaggiati per stimolare l'utilizzo di borse di tessuto. Stanno adesso sono in mercato, in commercio, delle buste fatte con il mais, biodegradabile, quindi senz'altro hanno un impatto ambientale basso, quindi diciamo senz'altro sono migliori delle buste di plastica. Però se pensiamo che togliamo il mais alla natura per metterlo alle buste, io sarei dell'idea: ripuliamo tutti i depositi dai tessuti. Quando finiranno tutti questi tessuti, che saranno sistemati in altri ambienti, in altri, e anche con altri utilizzi, potremo passare magari ad altri materiali come il mais. Io oggi mi concentrerei sull'utilizzo di tessuti di seconda scelta, terza scelta, quelli che sono destinati allo scarto. Aziende a livello nazionale mi stanno dando una mano e mi offrono molti tessuti che altrimenti avrebbero nei loro depositi. Ecco, i numeri della vostra società, i numeri di Made in Carcere quali sono? Cioè, quante persone lavorano all'interno delle carceri? Quante donne stanno lavorando a questa iniziativa? E poi che tipo di fatturato avete? Noi, consideri, io sono un ex dirigente di banca e quindi a livello di impresa ho imparato in questi 2 anni, perché praticamente sono 2 anni che abbiamo messo in piedi questa impresa sociale, una cooperativa non a scopo di lucro che si chiama Officina Creativa, e ha messo in piedi alcuni marchi legati all'ambiente. Noi ci occupiamo anche di energia rinnovabile e risparmio energetico. Nel mondo di Made in Carcere abbiamo 13 detenute a Lecce, di cui 9 di alta sicurezza e 4 di detenute comuni, e a Trani c'è il progetto, ce n'è una assunta e 5 in formazione con un contratto a progetto, per stiamo insegnando loro a cucire, ma stanno già rispondendo bene e c'è anche molto entusiasmo nel gruppo. Quindi abbiamo 13, 4, 17 detenute e fuori, dove quindi la produzione è fatta completamente tutta in carcere, ma anche lo stile, il modello, sono le detenute stesse in collaborazione con me che creiamo i modelli, realizziamo i disegni che sono poi visibili su www.medincarcere.it. All'esterno invece ci abbiamo altre collaborazioni legate alla comunicazione e alla commercializzazione. Il fatturato, consideri che abbiamo triplicato la produzione rispetto all'anno scorso, siamo su una quota di 100.000 pezzi circa prodotti. Respiro. Bentornati a Respiro, e dunque andiamo avanti a raccontarvi quanto avviene nella comunità di coloro che sono impegnati nel settore dell'ambiente. Siamo a ridosso di Natale, abbiamo deciso di fare un focus su regali e spunti ecosostenibili. Antonio Mazza ha scritto un libro che si chiama Felici a costo zero, e in qualche modo spiega proprio questo: si può essere felici e rendere felici impattando poco e spendendo poco. Allora, il libro è nato, questa è la quarta edizione di un libro che ho scritto 10 anni fa, quando sono rimasto disoccupato, 25 anni che stavo in giornale, mi hanno buttato fuori da un giorno all'altro, quindi si può immaginare la crisi. All'epoca ero io, la mia compagna che non lavorava e 3 gatti, quindi mantenere tutte queste persone non era facile, insomma, passare da una vita dove non è che io non sono mai stato uno sprecone, sono stato abbastanza sempre sobrio, però sai, quando fai un certo tipo di vita, ti sfugge un po' tutto tra le dita. Allora ho cominciato a ridimensionare tutto, a elaborare la cosiddetta strategia di risparmio, e lì piano piano mi sono reso conto di come un sacco di cose sono superflue, e ho riscoperto quella che poi è la chiave di tutto il libro, che si applica a qualsiasi situazione, che è il valore d'uso delle cose. Cioè, quanto mi serve questa cosa? Mi serve realmente, o c'è una parte che per avere quella parte così ludica, che non serve a nulla, io alieno una buona parte viceversa della mia vita? E lei, mi sono reso conto come liberarsi da tante cose, liberarsi del superfluo, vivere in maniera più leggera, ed è quello che sto facendo adesso. E direi che tutto sommato la formula ha funzionato, perché diciamo che procedo su 2 strade, una per quelli che non arrivano alla terza o quarta settimana, quindi do dei consigli di risparmio minimale, agli altri, quelli che continuano a insistere su quel superfluo cui non hanno più accesso perché non riescono ad arrivare, consiglio come fare per non perdere completamente la bussola, questo è il punto. la storia che porta a questo percorso parte dalla genesi del malessere, che la accennava anche lei, ha a che fare con in qualche col modo mondo economico. Sì, col mondo economico, con la rivoluzione industriale che ci fa avere più soldi, ci fa pensare che tutto può essere usato, consumato e gettato, no? Esatto. Io parto proprio da lì, perché io ero adolescente quando c'è stato il boom economico, però già c'avevo dentro il sentivo che qualche cosa non funzionava, perché noi, è vero che il paese stava uscendo dalla fame, eravamo proprio dei pezzenti, però siamo arrivati al boom economico in maniera come tanti all'italiana, in modo sciolto, quindi distruzione del territorio, consumare a tutto andare, senza capire, senza avere un minimo di coscienza di quello che stavamo facendo. La cementificazione del territorio è iniziata all'epoca, tutte le allegre giunte palazzinali degli anni 60, no? All'appalto, all'appalto. E ci troviamo adesso, ecco, diciamo che i nodi sono venuti al pettine, sì, d'accordo con 68, anni 70, ma piano piano i nodi sono venuti al pettine e ci troviamo adesso come ci troviamo, cioè con un paese con un territorio disastrato, un dissesto idrogeologico, non ne parliamo, un consumismo che è arrivato a limiti così di quasi demenziali, l'aria avvelenata, e noi dobbiamo comunque ridimensionarci prima che sia troppo tardi. E io qua c'è un ritaglio di giornale che dice che appunto shopping natalizio è stressante, per il 64% degli italiani shopping natalizio è fonte di stress, per il 41% degli acquirenti va di fretta, il 28% è irritabile, il 19% vive le compere come un obbligo. E che dico, in questo momento che io già vedo per estate, mi sembra già comincia la follia, perlomeno qua a Roma già comincia la follia natalizia. Io ho dei suggerimenti, perché non siamo in un periodo di crisi. Io all'epoca mi sono reso conto quanto spesso di Natale, voglio dire, i prezzi aumentano e molti si indebitano per fare i regali. Io sin da allora, da quando sono entrato in crisi, ho cominciato a fare i regali proprio confezionare, fai da te dei regali, e do tutta una serie di suggerimenti, perché spesso poi i regali sono fatti così, la gente magari fa un doppione, oppure un regalo inutile, l'altro dice oh, quanto è carino il regalo, poi magari lo butta. Allora do un sacco di suggerimenti, primo, quello più ovvio, il riciclo dei regali, per cui un regalo che non ti piace lo metti da parte e lo dai a un'altra persona, attento però che magari non lo dai alla stessa persona, sì, appunto, si possono creare degli equivoci, no? Viceversa, io quello che suggerisco è proprio il regalo, io faccio per esempio dei regali di tipo gastronomico, sono molto apprezzati, non solo scegli le cose, gli ingredienti, ma poi eviti tutta una serie di imballaggi, di cose, e quindi anche un regalo ecologico tutto sommato, per cui l'impatto diventa zero. In chiusura di questa puntata vi parliamo di Casa Naturale, un bimestrale che si occupa di ambiente con taglio tecnico e che spesso riesce a rispondere a quei quesiti piccoli o grandi che ognuno di noi nella sua quotidianità si pone. Antonia Solari è vice capo servizio di Casa Naturale, sentiamo di cosa si occupa in questo numero, questo giornale. Allora, Casa Naturale è un mensile dedicato alla bioarchitettura e allo stile di vita sostenibile. Ci occupiamo quindi di edilizia a basso impatto, di interior design dove vengono selezionati arredi sempre green, e poi c'è l'ultima parte dedicata al living, dove comprendiamo sempre inchieste e suggerimenti per appunto uno stile di vita più compatibile con la natura e con l'ambiente. Nel numero di gennaio-febbraio comprenderemo diversi approfondimenti, tra cui nella parte costruire, che sarà molto approfondita, comprendiamo sia un progetto di uno studio di architettura austriaco, dove mostriamo come si può costruire compatibile con l'ambiente e il design, e poi un'altra serie di progetti minori come dimensione ma non come valore. Per esempio ci sarà un'intervista, un approfondimento sul progetto di Aldo Cibic, che è uno degli architetti più importanti in questo contesto a livello internazionale, e ci espone la sua idea per uno stile di vita diverso. La parte arredare invece sarà caratterizzata da un progetto di una casa su un albero, dove gli interior sono minimalisti e assomigliano a quelli di uno chalet, e quindi tutto in legno 100% naturale. La parte del living invece vede come protagonista principale Stoccolma, che ha ricevuto il premio come capitale eco per il 2010, sia per meriti passati, perché comunque è la città che è sempre stata più attenta alla sostenibilità, sia per i progetti che hanno in atto e che stanno per cominciare, soprattutto per l'urbanistica, perché appunto ci sono soprattutto due quartieri molto importanti che potrebbero diventare un modello per l'Europa e non solo per l'Europa sul costruire sostenibile, comprendendo anche i servizi, la mobilità, la gestione dei rifiuti e ogni aspetto legato alla quotidianità. E nello stesso numero anche approfondimenti sul piano casa, con in dettaglio le iniziative di ciascuna regione e le battaglie per rimanere in un ambito appunto di edilizia sostenibile. E poi sempre a color orario di tutte le sezioni, le varie rubriche che trattano le ultime novità nel campo dell'energia, dei rifiuti, della mobilità sostenibile, del risparmio in bolletta attraverso comportamenti intelligenti all'interno della casa, sul riciclo e gli appuntamenti del mondo della sostenibilità. È tutto per questa puntata di Respiro, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, potete riascoltarci sempre il sabato alle 16:30 circa, la domenica in replica alle 14, oppure andando sulla pagina di Respiro che si trova sulla più grande pagina di radio24.it. Se volete potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.